si può fare. Cronache da un paese migliore. E di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, 9 e 16 minuti, di nuovo in diretta con Si può fare. Staremo insieme sino alle 11:00 24:00 24, il numero verde per intervenire in diretta. Potete cominciare sin da subito a prenotare il vostro intervento, per commentare quello che sentite, per raccontarci come sempre ogni weekend che cosa ha reso più bella la vostra settimana. Tra poco anche per rispondere alla domanda sul personaggio della settimana, il primo indizio tra qualche minuto. Come ogni weekend in palio, anche oggi mettiamo i biglietti ma anche il prezioso catalogo per le mostre sui preraffaelliti a Torino e su Andy Warhol a Roma. Tra poco parleremo di scuola con una originale lista di compiti per le vacanze, un po' meno impegnativa di quello che in genere danno gli insegnanti a scuola. La proposta di una maestra elementare che segue quello che disse un anno fa, esattamente un anno fa, l'ex ministro a questo punto Carrozza, che disse: beh, non esageriamo coi compiti, perché bisogna dare il tempo ai ragazzi di metabolizzare quello che hanno imparato durante l'anno. Una vecchia polemica che ritorna anche quest'anno, rilanciata da questa insegnante. Fatemi però prima dire una cosa, perché abbiamo fatto rassegna stampa come ogni sabato e domenica mattina. Non c'è stato tempo però per leggere il giornale più importante, che è la Gazzetta dello Sport, ovviamente Gazzetta Sportiva adesso, perché c'è questa attesa spasmodica per l'Italia. Prandelli ribalta l'Italia martedì contro l'Uruguay di Cavani e Suarez, sfida da paura. Dentro o fuori, il CT studia nuove soluzioni e per questo passa alla difesa a 3. Speriamo che siano vere queste previsioni. Vedremo una nazionale diversa, spazio a De Sciglio e Verratti. Oltre a un gioco migliore serve un alto spirito e un Balotelli diverso. Immobile scalpita, scrive la Gazzetta. Quindi la formazione potrebbe essere Buffon, Chiellini, Bonucci, Barzagli, e poi centrocampo De Sciglio, Pirlo, Verratti, Darmian, in attacco Balotelli supportato da Marchisio e Candreva. Se gioca Immobile prende il posto appunto di Candreva. La notizia cattiva è De Rossi KO e il caldo che ci perseguita. Poi vabbè, ci sono anche le altre notizie sulle altre partite del mondiale interessanti, perché c'è il capolavoro di Messi con un Iran però da applausi, la vittoria al 91esimo minuto dell'Argentina sull'Iran con il gol della Pulce, e la Gazzetta che si domanda: è arrivato il suo mondiale? E poi che sorpresa il Ghana che ferma sul 2-2 la Germania, Klose salva i tedeschi. Insomma, un po' di doveroso aggiornamento sui mondiali. 800 24 00 24, adesso come detto parliamo di scuola. Insomma, l'abbiamo detto, parliamo di scuola. L'anno scorso fu il ministro dell'istruzione Maria Chiara Carrozza a dire che ritenevano poco opportuna l'assegnazione di troppi compiti per le vacanze estive. Bisogna lasciare ai ragazzi il tempo di metabolizzare quello che hanno imparato, magari dare dei libri da leggere. Una polemica che ritorna e quest'anno a rilanciarla un ministro, ma è un'insegnante, autrice tra l'altro e scrittrice, Maria Giuliana Saletta. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno ai radioascoltatori di Radio 24. Ideatrice di una lista particolare di compiti a casa per le vacanze, che prevede le cose più strane e anche più assurde. Adesso lei ci spiegherà perché ha pensato questa cosa. Una lista che è rimbalzata moltissimo in rete, ha aperto discussioni, ha trovato molti sostenitori. Fare una capriola al giorno, correre nei prati o sulla spiaggia, inventare una parola, inventarsi una storia col nonno, andare in libreria, leggere, appunto cose assurde ma anche no. Intanto, come è venuto in mente di fare questa lista particolare e perché, credo, inserendosi in questo dibattito, no? Che ogni anno alla fine della scuola Maria Giuliana torna su fare o non fare tanti o pochi compiti. Sì, ma in realtà questa lista è nata da dalla mia esigenza di madre. Io 12 anni fa avevo 3 bambini in età appunto di scuola elementare, hanno 4 anni di differenza uno dall'altro, e mi ritrovavo tutte le estati con 6 libri di compiti nelle vacanze, perché 3 di italiano e matematica, storia e geografia, e uno di inglese per ognuno, ed era, iniziava la lotta. L'inferno iniziava. L'inferno, sì. Io lavoravo, mio marito lavorava, e le 2 paginette al giorno con i bambini erano veramente un peso per tutti quanti, scatenavano delle dinamiche veramente pesanti per tutta la famiglia. E a me invece piaceva molto vedere, non so, lo stupore di mia figlia davanti a un quadro di Picasso in un museo, piuttosto che gli occhi spalancati dell'altra quando la portavo a teatro a vedere il Gobbo di Notre Dame, piuttosto che mio figlio appassionarsi della Divina Commedia ascoltando Benigni. Ecco, cioè, secondo me il ruolo del genitore, soprattutto durante l'estate, è quello di far fare ai propri figli piccole cose. Anche andare a pesca con il papà, piuttosto che fare una torta insieme alla mamma, ti insegnano un sacco di cose che sulle pagine di un libro non trovi, e che insomma secondo me comunque ti danno delle nozioni che possono anche essere quelle scolastiche. Sì, ecco, però perché c'è questa cosa curiosa per cui tu, Maria Giuliana, sei partita da una esigenza personale di mamma, ma anche da un'esperienza poi di educatrice, e hai sentito questo bisogno di alleggerire in qualche modo un po' un carico. Però poi sappiamo che quando gli insegnanti magari ci provano ad alleggerire il carico, sono poi proprio i genitori, gli altri genitori, che magari la pensano diversamente, ad andare a dire preoccupati: ma nell'altra classe hanno dato un libro in più, hanno fatto un passo in più nel programma, sono arrivati fino al Medioevo, noi siamo ancora fermi a... E si creano queste situazioni per cui spesso sono proprio i genitori a chiedere un carico più pesante. Perché c'è questa anche questa ansia da prestazione a volte? Ma sì, è vero, ci sono tanti genitori che la pensano in questo modo. Io sono convinta che i bambini non siano tutti uguali, cioè io non sono contraria a prescindere al libro delle vacanze, nel senso che secondo me il genitore che vuole far fare le 2 paginette al giorno al bambino, vabbè, vada in libreria e se lo scelga il libro dei compiti delle vacanze. Cioè se questa è l'esigenza di un genitore o di un bambino, va bene, cioè nessuno dice che non lo debba fare o che siano da, come dire, da cancellare dalla faccia della terra i libri dei compiti delle vacanze. Alcuni sono anche carini, simpatici, e può essere anche che il bambino si appassioni a farlo, però non tutti i bambini sono uguali, e bisogna stare attenti anche, secondo me. Cioè, quello che io non trovo corretto è che sia l'insegnante a consigliare il tal libro piuttosto che il tal altro. Gli insegnanti hanno per 9 mesi all'anno i nostri figli a scuola per tantissime ore, e finita la scuola i bambini hanno ancora cose da fare riferite alla scuola. Durante l'estate credo che il genitore debba riprendersi il suo ruolo di genitore, e la scuola non debba esserci questa propaggine, diciamo, invadente nella vita estiva, che in effetti poi è anche molto impegnativa, è vero, per i genitori stessi. Chi ha più di un figlio, 2 figli, addirittura 3 figli, seguire i compiti di tutti con i libri di matematica e di italiano, che poi spesso non vengono corretti, ma verrebbe da dire sembrano più i quiz per l'esame della patente che non, cioè, dove bisogna indovinare la parola giusta, cose di questo genere. E in effetti, anch'io ho un ricordo, una nostalgia forse di quando alla nostra epoca ci davano da leggere dei libri, magari, quello sì, erano delle avventure vere e proprie che si facevano durante l'estate, ma sicuramente formative. Non c'erano questi libri da compilare, e credo che insomma la scuola l'abbiamo fatta tutti positivamente anche in questo modo qua. Io intanto rilancio agli ascoltatori la palla 800 24 00 24 di chiamare chiamarci per raccontarci la vostra esperienza con i compiti per le vacanze come genitori, o se volete raccontare il ricordo della vostra quando eravate ragazzi, e se siete d'accordo oppure no con Maria Giuliana Saletta, cioè di alleggerire, di giocare con la fantasia, di dare da leggere dei libri e di non ridursi, verrebbe quasi da dire così, a compilare libri di italiano e matematica, senza voler sminuire poi l'importanza di queste cose. Se c'è qualche insegnante che vuole puntualizzare, ben venga. Io però vorrei dare un'occhiata anche a questa lista. Fare almeno una capriola al giorno, correre nei prati e sulla spiaggia. Qui è chiaro un rimando al bisogno di fare movimento, no? Certo, ma alla libertà del bambino, al fare le piccole cose di tutti i giorni che poi alla fine magari non riesci neanche a fare proprio perché hai mille impegni, mille altre cose da fare. Scrivere una lettera alla nonna. Io adoro i nonni, io ho avuto dei nonni meravigliosi e quindi per me il nonno è fondamentale, la nonna e il nonno sono fondamentali. Però è vero, pensate a quanto può essere istruttivo e formativo scrivere una lettera alla nonna o al nonno per un bambino che va alle elementari. Comunque si tratta di scrivere, di comporre un testo, naturalmente con un carico affettivo diverso e anche con meno griglie, diciamo, da precompilare. Assaggiare tutti i gusti il gelato, vabbè, questo è tutti i sensi, mettiamo in gioco tutti i sensi, anche il sì. Gusto è un invito, perché a no. Scoprire, no? Non è una banalità anche questa, perché sappiamo che i bambini si affezionano al cioccolato e alla fragola, per esempio. Bisogna invitarli a scoprire. Certo. In realtà poi questa lista è stata ripresa appunto perché io scrivo libri per i bambini ed è stata, l'abbiamo ripresa appunto sul giornale di Echino, che è questo personaggio che mi sono inventata, ma anche perché finché lo dicevo come mamma non mi ascoltava nessuno, poi figuriamoci 12 anni fa, 15 anni fa non si poteva neanche dire alle maestre ma veramente i compiti delle vacanze a me non interessano, non voglio farli fare i miei figli. E quindi si facevano e basta, e non si stava a discutere. Adesso forse se ne parla un po' di più, però appunto ho utilizzato un po' questo personaggio per farmi sentire, per dire quello che da tanti anni penso e che ho anche sperimentato come insegnante, perché quando i miei bambini della scuola elementare alla fine dell'anno mi chiedevano maestra che compiti delle vacanze ci dai, erano queste le cose che dicevo ai bambini: riposatevi, giocate, andate a visitare un museo, andate al cinema, state insieme alla mamma e al papà, fate una torta insieme alla mamma, in modo da imparare anche le misure e tutto quanto. Poi insomma leggere libri, questo sicuramente fa bene, no? Non ha controindicazioni. Ma assolutamente no, anzi, ed Echino è nato anche per questo, proprio perché è un giornale per i bambini e volevamo avvicinare proprio i bambini alla lettura del quotidiano dei grandi, perché poi alla fine ce li perdiamo durante l'adolescenza, non leggono più e i giornali non li leggeranno più, no? E quindi noi abbiamo pensato proprio questo progetto per questo motivo, per avvicinare i bambini alla lettura del quotidiano, alla lettura del giornale, per prenderli sin da piccini, fin da quando sono molto piccoli, in modo che quando poi diventano grandi si troveranno di fronte a un giornale e non ne avranno paura, ma lo sfoglieranno con naturalezza. Senta, l'anno scorso la Maria Chiara Carrozza aveva detto più o meno le cose che sta dicendo lei, naturalmente in modi sicuramente diversi. Oggi il ministro dell'istruzione Stefania Giannini ha avuto modo di leggere tra le righe il suo pensiero su questo. C'è qualche indicazione ministeriale in arrivo o no? Sui compiti delle vacanze? Sì. Non lo so, speriamo che arrivi. Va bene, staremo a vedere. Intanto grazie a Maria Giuliana Saletta, grazie per essere stata con noi, buona domenica. Grazie a voi, buona domenica a voi e buone vacanze ai bambini con la lettura e con il divertimento. Certo, grazie ancora. 800 24 00 24, cari ascoltatori, voi che siete all'ascolto, che siate genitori, se siete insegnanti, se volete raccontarci il vostro ricordo di quando eravate studenti, se siete studenti, magari non delle elementari, perché non credo vi faranno intervenire i genitori al telefono, oppure se volete chiamarci anche se avete 7 anni, siete i benvenuti. Raccontateci il vostro rapporto con i compiti delle vacanze estive. 800 24 00 24. Tra poco il primo indizio per quanto riguarda il personaggio della settimana. Tra poco. Si può fare cronache da un paese migliore. E buongiorno a Carlo Gabardini. Ciao Carlo. Buongiorno a tutti. Momenti di panico, Alessio, con il pulsante della messa in onda. Sì, perché il mio stage sta diventando sempre più difficile. Adesso devo abbiamo cambiato anche, cambiato studio, quindi devo anche premere un pulsante prima di parlare. E ovviamente mi dimentico, anche perché io, cioè, prima di parlare non faccio niente. Di solito prima di parlare parlo già, quindi sto già parlando. Invece qua devi ricordarti di muovere il dito. No, no, ma però l'ho fatto di muoverlo. Vabbè, sì. Adesso non parliamo di cose tecniche. Avevi sbagliato che... pulsante? No, no, se probabilmente quando accendi tu si accende anche il mio. Allora tu avevi acceso e avevi spento. Ho spento, esatto. Momenti radiofonici. Va bene. Allora. Per gli stagisti che ci sono in ascolto. I tantissimi stagisti, esatto, che ci sono in ascolto. Gli stagisti della mattina. Gli inviati cerca, sì, ne abbiamo trovati 10 quest'anno, abbiamo premiata una, Alice Bellincioni, la salutiamo tra l'altro. Hai visto la partita ieri? Io ieri ho visto poco, cioè, visto poco. Bastava vedere 3 minuti di Germania-Ghana, per cui in confronto Italia-Costa Rica sembrava la partita del scapoli cuore. Ammogliati. Sì, esatto, giocata da ex glorie del tennis da tavolo, peraltro, defunte. Quindi è stato molto Germania-Ghana? Beh, bellissima, assolutamente molto appassionante, nel senso che tipo al 91esimo minuto correvano tutti e 22, molto di più che in Italia-Costa Rica tutti e 22 all'inizio della partita. Quindi è stato molto molto interessante. Germania, tra l'altro, che ha pareggiato però con una squadra impegnativa come il Ghana. L'Argentina invece Klose ha vinto, che ha fatto il 15esimo gol, ha arrivato allo stesso record di Ronaldo. Però ho letto prima sulla Gazzetta che Prandelli sta per ribaltare l'Italia, entrerà Immobile forse, De Sciglio, la ribalta per forza, diciamo, non ha De Rossi e deve vincere per forza. No, basta un pareggio, come e finalmente sappiamo. Con la difesa a 3 della Juve, che tutti dicono, ma se la Juve ha vinto il campionato è fatela giocare questa difesa della Juve. Ma non lo so, c'è tanta Juve, vabbè, ma adesso non entriamo per un interista, non entriamo nello specifico. Sono molto contento, sì. Dimmi. Diciamo un indizio del personaggio della settimana. Diciamo un indizio. Così cominciamo a scatenare le telefonate. Molto bene, mi sembra molto giusto. Allora, vai con l'indizio. Vado io, sì, il personaggio, signori, della settimana, per cui cerchiamo anche una notizia che lo riguardi, parla inglese. Così. È buono, è buono, diciamo, per il momento è squalificata, io, esempio, solamente mia zia. Io per esempio non parlo inglese, quindi già ma non è vero, un po' lo parli, assolutamente. Poco. Questo lo parla davvero. Oggi, questa settimana, diciamo, mi ha fatto molto molto piacere le parole del Papa, che trovo che abbia fatto un passo epocale dicendo con questa chiarezza: i mafiosi sono scomunicati. Sembra banale perché uno dice, vabbè, è ovvio, sono criminali, però detto con questa precisione, detto lì e parlando addirittura di 'ndrangheta, che è la prima volta, se ho capito bene, che un papa proprio adopera la parola 'ndrangheta, mi sembra una buonissima notizia il fatto che il papa prenda una posizione così netta e così precisa nei confronti dei mafiosi. Poi in questo momento invece si parla moltissimo del caso Yara, e quindi siamo diventati tutti gli esperti di DNA e di assassini in generale. Ora, noi non ci occupiamo del caso Yara, anche perché finché, diciamo, non è dato per colpevole, ci esimiamo da definirlo colpevole o meno. Magari ha un fratello gemello con lo stesso DNA, anche perché questo il padre, questo signore, magari ha fatto un sacco di altri figli illegittimi, quindi non si sa. Però a proposito di DNA, intanto volevo dire questa cosa, che davanti all'Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone, dove Berlusconi svolge i propri servizi sociali, è comparso Giuseppe Zinelli, che è un signore che dice: io sono il gemello di Silvio Berlusconi. E dice che Berlusconi sa benissimo che lui è suo fratello, perché la madre di Berlusconi non poteva avere figli secondo questo Giuseppe Zinelli, così ha chiesto a mia madre uno dei due gemelli. Quindi lui dice di essere uno dei gemelli ed è disposto a fare il test del DNA, perché lui dice: abbiamo gli stessi occhi, lo stesso stesso sorriso e anche io canto come lui. Poi in questa intervista, questa è una prova inconfutabile. Nell'intervista è anche divertente perché lui dice: e poi io sono poverissimo e sono fiero di essere povero. Quindi diciamo, questo ho la non, sensazione non collima che molto. Non collima e la sta buttando sull'eredità. Sempre a proposito di DNA, in Svizzera Ludger Pütz chiede che lo Stato effettui il test di paternità a ogni nuovo nato. Pütz è un signore che ha scoperto di non essere il vero padre del proprio figlio e ha fondato un blog che si chiama Kuckucks Vater Blogs, ovvero il blog del papà che fa cucù, quella cosa lì. È un po' triste questa vicenda. Per padri che si ritrovano nella stessa situazione. Ma non so quanto sia triste. Io devo dire che siccome appunto gli esperti stimano che in ogni classe scolastica ci sia almeno un figlio illegittimo, secondo questo signore il test del DNA renderebbe tutto molto più chiaro. Personalmente penso che molte volte sia meglio non sapere, onestamente. Credo che ci siano un sacco, nel senso che non è una novità, diciamo, senza stare a parlare del lavoro più antico del mondo o del tradimento in generale, non credo che sia una novità, credo che ci siano un sacco di persone che forse sono figli illegittimi, ma sono morti a 96 anni senza saperlo, hanno vissuto benissimo. Forse non c'è bisogno, diciamo, di andare per legge a fare l'esame del DNA con il terrore di tutti. È uno dei tanti casi in cui è meglio non sapere la verità, ma non credo che questa proposta del signor Pütz avrà un grande seguito, forse sì. Non lo so, in realtà. Sai, gli svizzeri adesso vanno avanti a colpi di referendum. Esatto. Visto? Magari adesso ne fanno uno. Infatti. Ovviamente chissà. Questo il sito fa anche il referendum e quindi si può votare se uno vuole o non vuole il test di paternità obbligatorio per tutti. E arriva la notizia di Starbucks che volevo dare ieri, che però poi non c'è stato il tempo, ovvero Starbucks ha deciso di pagare la laurea, gli studi perlomeno a tutti i propri dipendenti che ne abbiano voglia. Intanto ricordaci cos'è Starbucks. Noi che non siamo anglo, giusto, chiedo scusa. Starbucks è una catena di caffetterie. Caffè. Se vogliamo la più grande nel mondo. In realtà ci si chiede sempre come mai non apra anche in Italia. Perché molti dicono: ma perché non facciamo il franchising anche in Italia? Il problema è che in Italia c'è proprio un'altra cultura del caffè. E soprattutto c'è un bar ogni 3 metri, quindi non è che è dura. Starbucks praticamente ha inculcato anche negli americani la passione per il caffè. È un altro tipo di caffè, è il caffè americano, il caffè lungo, ci sono un sacco di caffè diversi, col caramello, e adesso hanno deciso che ha annunciato un accordo con l'università dell'Arizona. Ovvero la società si accolla il pagamento delle tasse di iscrizione ai corsi online organizzati dall'istituto a favore di chiunque lo desideri tra i suoi 135.000 dipendenti, perché ricordiamo appunto Starbucks è una catena gigantesca. E l'offerta è molto interessante per 3 motivi. Primo, perché l'offerta è senza restrizioni, ovvero può chiedere il sostegno agli studi anche un neoassunto, non solamente chi è dentro nella catena e ci lavora già da molti anni. È un caso forte di welfare aziendale. Esattamente. Secondo, non si richiedono impegni sul futuro, non è che si viene detto: eh no, però dopo tu ti lauri, però sei obbligato a rimanere a lavorare alla Starbucks per tutta la vita. Invece, una volta laureato, il dipendente è libero anche di lasciare l'azienda. Terza cosa, c'è completa libertà di scelta sul tipo di corso da frequentare. Quindi mi sembra molto interessante come operazione. I vertici di Starbucks dicono anche se al raggiungimento della laurea i nostri dipendenti decidessero di andarsene, penso che i vantaggi sarebbero comunque decisivi. Esattamente quello che dicevi tu, Alessio, cioè il welfare, il fatto anche di star bene dei loro dipendenti, ovvero questo creerebbe maggiore disponibilità sul luogo di lavoro, maggior soddisfazione, aumento della produttività. Diciamo che forse anche questo modo stupendo di pagare anche gli studi propri dipendenti forse è uno dei motivi per cui Starbucks non apre in Italia, diciamo. È un tipo di sindacalizzazione che da noi farebbe fatica trovare terreno fertile. Se ci sarà una risposta di Italy a Starbucks in questo senso, potrebbe, perché giusto, sono catene simili, chi lo sa. Vero. Ascoltatori, Edda da Milano, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuta. Grazie. Dunque, io dicevo, ho un nipotino che vive male l'estate, perché lo carico di compiti e sì. Siccome lui ha il senso del dovere, è uno dei primi della classe e non vuole perdere questa postazione, avvelena se stesso e avvelena noi che siamo i nonni e che lo vediamo solo 15 giorni d'estate, e quindi se partiamo dobbiamo tutti portarci... curvi sui libri delle vacanze del nipote. Come? No, dico tutti curvi sul libro delle vacanze del nipote. Ma quanti anni ha? Quanti anni ha suo nipote? Ma non 12, ah. Ma non solo curvi. Dobbiamo collaborare, nel senso che ognuno fa una cosa, perché sennò lui non ci arriva. Capisce? Come non ci arriva? Ma sei il primo della classe. Prego? Ma sei il primo della classe, ci arriverà. No, lui va, ha fatto il suo corso di studi normale, insomma, è bravo. Però siccome è molto, non è che è un bambino che dice me ne frego, non li faccio. C'ha questo senso di responsabilità, però poi i compiti non sono facili, da solo non riesce. Non sono, e dovete aiutarlo. Non è che il fatto che non sono facili, sono tanti. E allora ci spartiamo i compiti, e questo non è educativo. Cioè vi spartite i compiti nel senso che li fate voi? Sì. E anche lui. E qua vedete, si svela la verità, cosa succede. Cioè, lui poi va in spiaggia a divertirsi e voi poveri nonni siete obbligati a stare a casa a fare matematica. Guardi che lui non va a divertirsi. No, signora, scherzava. Carlo scherzava. No, lui fa la sua parte. Sì, e certo. Quindi perché... Vabbè, insomma, questo è il disagio di nonna Edda. Grazie per averci chiamato. Questo, insomma, me l'aspettavo perché era tra le righe di questa notizia. È chiaro che il disagio dei genitori, poi in questo caso anche dei nonni. Sentiamo. Mia mamma non mi aiutava comunque a fare i compiti, diceva li devi fare, falli. Sì. È molto ma semplice. Secondo me è cambiato proprio un po' tutto, il tipo di compiti che ti danno, forse anche l'invadenza dei genitori a un certo punto di vista, ma anche secondo me anche un po' la difficoltà, si fanno più cose fuori di scuola che dentro la scuola, c'è questo carico che ti danno e quindi poi tu da solo forse non ce la fai proprio oggi. Ho visto anch'io le esperienze di miei nipoti, per esempio, che te li fai studiare, che li aiuti tu. No, io no. Però i genitori sono costretti a coadiuvare lo studio perché da soli non ci riescono. Non so, sarà che mia mamma, avendo io quattro fratelli, eravamo in cinque, forse farci i compiti per tutti era impossibile, doveva comprare una squadra di nonni, di 600 nonni. Sentiamo un po' Pier Antonio da Sondrio. Buongiorno. Buongiorno a lei. Prego. Allora, assolutamente contrario ai compiti estivi, ho un po' di esperienza avendo cinque figli, per cui direi che sono assolutamente contrario a questo tipo di impostazione. Forse anche perché vengo da una generazione dove l'estate era estate e la scuola si chiudeva e si riapriva a ottobre, e in quei mesi ci si divertiva e si cresceva lo stesso. Per non parlare che vedo il discorso dei compiti estivi come una leggera ipocrisia, se non anche un business correlato alla vendita dei libri per le vacanze. Penso che sia meglio impostare il discorso dando dei temi generali ai ragazzi da svolgere, sicuramente apprezzabile quanto consigliava la professoressa, sì. E magari anche qualcosa di personalizzato, perché essendo ovviamente le maestre buone conoscitori dei bimbi e dei ragazzi, potrebbero dare da svolgere durante l'estate qualcosa. Beh sì, per esempio scrivere qualche diario, sì. Sì, piuttosto esatto. Che compilare pagine e pagine. Che poi va a finire che le compiliamo poi. Anzi, in questo caso ovviamente la mamma, perché il papà è sì. O i fratelli, visto che lei ha cinque figli. Certo, ma è vero, certo. Pier Antonio, è vero che c'è anche un po' di fretta oggi da parte delle famiglie, magari dei genitori? Questo può essere un limite nostro, però. Di coinvolgimento sì. Dei genitori a fare qualcosa di operativo. Sì. Sicuramente l'impegno a portarli a una rappresentazione teatrale, a far vedere che so io un canile, uno zoo, qualcosa che li faccia trascorrere un po' di tempo insieme, non legati alla compilazione. Però è difficile come compito dire andate a vedere un canile. No, ha ragione, non deve essere una cosa tutto agosto, un canile. Dei suggerimenti, ma per farli entrare in contatto anche con alcune situazioni, perché no, potrebbe essere quello. Ce ne sono tanti suggerimenti che posso va bene, dare, mi sembra che grazie per Antonio, mi sembra che ci sia una larga condivisione per ora. Io non sapevo che ci fosse, forse perché non ho figli, non sapevo che ci fosse questa barricata contro i compiti estivi, non lo sapevo proprio. Sì, perché poi i genitori, hai sentito, no, uno per dire, nonni, sarebbe meglio che dei... i miei figli, invece che tutti questi compiti, dicessero vai a vedere un canile per incontrare, non so, forse per incontrare delle malattie infettive. Che... Beh, no, adesso questo signore ha detto un canile, ma si è fatto l'esempio del museo, di andare no, a un concerto, però quello forse al teatro, forse quello cose. I genitori possono farlo. Lo zoo va bene, no? Sì, ma possono farlo da soli, o c'è bisogno dell'obbligo di una professoressa per dire. Però se tu li se no, fai dovrebbe stare... anche dire, quest'estate andate al mare, per esempio, no? Andate in spiaggia, ma è vero, se tu gli fai fare 2 ore di compiti al giorno non hanno il tempo per fare altre cose. Certo, vabbè, però di giorno stai in spiaggia, poi i compiti li fai da mezzanotte alle 2, io pensavo, no? Se hai 9 anni. Ci fermiamo un attimo, poi torniamo ancora con gli ascoltatori tra poco. Si può fare cronache da un paese migliore. allora, anziché invece fare un ascoltatore, adesso lo teniamo in sospeso, è il momento della nostra cartolina dalle periferie di Simone Saccucci. Buongiorno Simone. Buongiorno. Ciao Simone. Adesso devo fare una piccola premessa, perché il tema, lo ha ricordato prima benissimamente Armando Massarenti, il tema più scelto dai ragazzi, il tema di maturità, uno dei più scelti, è stato proprio quello che citava il rammendo delle periferie, l'articolo di Renzo Piano sul Sole 24 Ore e il suo progetto con questi giovani architetti a cui lui paga lo stipendio, devolvendo il suo stipendio da senatore a vita, ha dato il compito di ridisegnare un po' le periferie di alcune città, laddove poi gli amministratori locali vorranno accettare questi progetti. Quindi siamo sulla notizia, quanto mai. Noi siamo partiti proprio da questa idea di Renzo Piano, ramendo le periferie, e abbiamo chiesto a Simone, che questo fa come canta storie, raccontare le storie dei luoghi non luogo, chi più della periferia lo è, ogni domenica una storia. Partendo da questo, qual è la storia che ci racconti oggi, Simone? Ecco, la storia che vi racconto è la storia di Felice. E secondo me Felice è anche un bel nome, è come se il papà e la mamma fossero stati così sicuri che addirittura abbiano usato l'imperativo, Felice, senza dubbi. L'ho incontrato qui da queste parti, ha una ventina d'anni, suona, canta e lavora. Con lui e tanti altri ragazzi abbiamo girato questa periferia con una sorta di collettivo che ha come motto: se non abbiamo piazze ma solo parcheggi, vorrà dire che trasformeremo i parcheggi in piazze. E così abbiamo fatto l'anno scorso, occupando con musica e storie per un'ora o due portici, vicoli, strade, parcheggi. Poi a Felice il lavoro ha chiesto di partire. Sembra strano, ma quando a uno che vive in periferia chiedi di partire, gli fa ancora un certo effetto. Gli fa ancora più effetto se gli chiedi di andare da Roma fino a Milano. Infatti Felice ha dovuto partire per Milano per lavoro. Ma siccome Felice è un bel nome, ce l'ha fatta a partire. Così gli ho chiesto, visto che stiamo in periodo di maturità, di scrivermi qualcosa da su, me l'ha scritta per mail chiaramente, e voglio usare le sue parole per descrivere la periferia di Milano. E lui scrive così: la periferia è periferia ovunque tu vada, o almeno questo è quello che ho imparato io. Ad un certo punto ti dicono parti, vai, farai, vedrai, e io sono partito. Mi ritrovo a via Lambrate, a Milano. Lambrate non è periferia se vieni da Roma, ma in realtà già qui si respira un'aria diversa rispetto al centro vero della città. Un'aria che ti ricorda qualcosa di familiare, palazzoni, case, palazzoni ancora case, supermercati e via dicendo. A me questo posto non sembra tanto diverso dal mio dormitorio, ma c'è una grossa, veramente grossa diversità. La gente partecipa e la gente qui è veramente legata a questa vita, alle molteplici proposte che gli vengono offerte, e ci si è abituata. La gente lavora, si mette in gioco, gira, vive e fa tutto il resto esattamente come noi, ma vive il proprio posto con molta più passione di quanta ne possiamo vedere in tanti di noi qui nel dormitorio. Ora, io non so se questa visione di Felice corrisponda al reale oppure no, perché dopo diversi tentativi ancora non ce l'ho fatta ad andare a Milano con lo spettacolo, con quello che faccio. Però stamattina io mi farei guidare solo dal nome, come a darci speranza al di là di tutto, perché Felice è proprio un bel nome. Grazie Simone. A voi. E noi ti aspettiamo a Milano, prima o poi, con il tuo spettacolo. Speriamo. Se ti serve una mano, un aiuto logistico, te lo diamo. Potresti farlo a Radio 24, per esempio. Magari, sì, accetto la proposta. Si può fare. Noi ci sentiamo domenica prossima e sarà anche in questo caso l'ultima puntata per quanto riguarda questo spezzone di programma. Poi si può fare, andrà avanti forse anche, anzi sicuramente ad agosto, in prima serata, tanto per dire. Intanto grazie Simone, ci salutiamo con il francobollo di questa cartolina che è la fodera blu del divano. Mamma ha visto il mare a 18 anni, nonna si è affacciata al balcone, ha strappato ad una le ricette ed ha gridato vaffanculo dottore. Papà se n'è andato proprio ieri e m'ha lasciato il negozio e i sacrifici, il pallone sotto nel garage e mi ricorda i giorni felici. Quando ero un contadino con la zappa, quando ero un pecoraro con le pecore, e sedevo sopra un dondolo che non cigolava e nessun ricordo mi attanagliava. Mia figlia ha imparato a pattinare in questa estate afosa di quartiere. Ora scende giù per via delle mimose e mi sorride, sorride felice. E va bene, questo era Simone Saccucci. Intanto però abbiamo una Simona che ci chiama da Udine. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Allora, io sono la prima esperienza con i compiti di vacanza perché mio figlio Pierluigi ha terminato la prima primaria. E in effetti è successo nella nostra classe che la maestra ha praticamente detto: fate quello che volete, tenetevi esercitati finendo quello che non abbiamo fatto durante l'anno. Ah, se finalmente volete, una maestra che lascia libertà di pensiero. Se volete comprate un libro delle vacanze, e ha detto c'è questo, però è molto grosso e quindi non lo finirete tutto. Quindi va bene Simona, noi adesso ci dobbiamo fermare per il giornale radio, però ci piace che ci sia almeno qualcuno che ci dà questo messaggio. Insegnanti più aperti sui compiti per le vacanze. Il rischio è che poi uno non faccia niente, possiamo dirlo? C'è questo rischio. Ne parliamo dopo il giornale radio. 800 24 00 24. Si può fare. Cronache da un paese migliore. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. E va bene, con questo successo dei Daft Punk, Get Lucky, del 2013, l'anno scorso, si può fare musica di Nicoletta Bellizzi, la nostra ascoltatrice che ci segue, e noi ringraziamo, e che ci ha chiesto di ascoltare questa canzone. Il vostro si può fare in musica, continuate a scrivercelo. È il penultimo, direi, oggi è la terz'ultima puntata. Esatto, è il penultimo. Continuate a scrivercelo sui nostri social network, per esempio la chiocciola si può fare 24 è il nostro account su Twitter. Il mio è chiocciola Ale Maurizio. E il mio è chiocciola Carlo Gabardini. Poi siamo anche su Facebook, naturalmente. Siamo un po' ovunque. E poi sul sito di Radio 24, ogni sabato e ogni domenica, mettiamo su le puntate con tutti i link. C'è anche la playlist della puntata, con le musiche scelte dal nostro Andrea Piana, il nostro autore. Andiamo a sentire qualche ascoltatore. E ricordiamoci anche che bisogna, assolutamente bisogna, indovinare il personaggio. Diamo un altro indizio. Ci sono in palio i biglietti per la mostra Torino dei Preraffaelliti a Roma di Andy Warhol, le mostre organizzate anche dal Sole 24 Ore e anche a volte, in alcuni casi, da Radio 24 stessa. Anna Rita da Roma, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Prego. Grazie di esistere. Buona domenica. Anche a te, Anna Rita, grazie di esistere, di chiamarci. Ma per un motivo specifico o così, è una questione generale? No, per il quiz, diciamo, sì, sul personaggio. Ottimo. Io avevo pensato, se posso dirlo, a Peter Sloan, che sicuramente parla inglese. Qual è la notizia su Peter Sloan di questa settimana, in caso? Che ha ripostato un tweet e anche in televisione ha risposto a quello che aveva detto indegnamente Gasparri sugli inglesi, e che non era quello che gli italiani pensano, e ci aveva fatto, a mio avviso, fare una brutta figura. Quindi c'è stata questa, diciamo, questa botta e risposta, dicendo insomma che gli inglesi non sono come pensa lui, e che comunque un uomo forse delle istituzioni non dovrebbe dire cose di questo tipo. Che cosa aveva detto Gasparri sugli inglesi, che me l'ero persa? Era contentissimo del fatto che gli avessimo dato una sveglia lì alla partita, sì, perfetto, e che perfetto, comunque erano boriosi e cose di questo tipo. Io per esempio che usava anche con qualcosa di indicibile, direi. Esatto, quindi non mi è piaciuto, e non è piaciuto a Peter Sloan, che giustamente ha risposto. Anna Rita, grazie, non era John Peter Sloan, però abbiamo sfruttato comunque, okay, per dare questa notizia e quindi ne siamo lo stesso contenti. Purtroppo non è il personaggio che abbiamo scelto, ma grazie di aver chiamato. Grazie a voi, arrivederci. Arrivederci, buona domenica. Giuliano da Roma, buongiorno. Buongiorno a voi, buona domenica anche a voi. Io volevo intervenire in merito a quella che la periferia, cioè l'intervento di Renzo Piano, volevo dire che non si può generalizzare. Faccio esempio, sì, in periferia a Roma entrano 11 acquedotti dell'antica Roma che servivano altrettante terme, ma non solo gli acquedotti, quindi 11 acquedotti romani, cioè lei ha, scusi, ha contato, cioè lei ha memoria numerica degli acquedotti che ci sono a Roma, sono 11 o quelli delle che passano in periferia? No, sono 11 più 3, diciamo, che sono degli inserimenti, come l'acquedotto di Nerone, sì, che si inserisce su quello di Claudio, che è di 70 chilometri. Ma non voglio puntualizzare su quello. No, ma soprattutto dall'antica Roma, poi passiamo al Medioevo, andiamo nella prima Roma del 1900, finché ovviamente andiamo alla Roma attuale. Quindi a smembrare, ad esempio, una periferia come il Pigneto, che ha tutte queste testimonianze, cioè l'antica Roma, perché passa. No, ma perché smembrare? Nessuno vuole smembrare le periferie. Renzo Piano non è che vuole smembrare, si è usato. Scusi un attimo, Giuliano. È un esempio di antropologia culturale. Che, sì, diciamo, ci Giuliano, come Roma, un attimo. Ma il fatto di avere un acquedotto non è che rende una periferia meno periferia, però, scusi, un acquedotto romano. Non no, ma soprattutto, esempio, Giuliano, mi scusi, Giuliano, ascolti un attimo, impari ad ascoltare. Si è usato, Renzo Piano ha usato il Sole 24 Ore quando fece quel famoso articolo, la parola rammendo, che è proprio, dà proprio il senso della volontà di non smembrare, ma di ricucire semmai parti della città che a volte sono slegate tra di loro per mancanza di mezzi pubblici, per mancanza di verde, per mancanza di luoghi di aggregazione, tutti questi temi di cui parliamo da anni. Poi l'acquedotto e i palazzi storici, città anche loro. Assolutamente sì, poi Roma, figuriamoci, da questo punto di vista è straordinaria, altre città hanno meno fortuna, ma è questo il senso, ha capito? Non si vogliono smembrare le periferie. Sì, alcuni anni fa, io non cito l'uomo politico, si pensava, sì, di riqualificare le piazze. Allora le piazze dove ci sono degli acquedotti sono stati messi dei monumenti che sono degli obbrobri, no, ha ragione. Sono stati fatti degli errori in passato partendo da un'idea teoricamente buona di riqualificare, questa parola riqualificare, sono stati fatti altri mostri, ma non è quello che vuol fare Renzo Piano, cioè si vada a guardare un po' gli articoli, i progetti, le cose, è un'altra cosa, è proprio il contrario di quello, credo, insomma. Non so se l'abbiamo convinto. Giuliano, pronto? Ancora lì? Sì, io sono qui, sì, ma non sono convinto affatto. Chissà perché me lo immaginavo. Giuliano, non è convinto. Vabbè, perché lei pensa che Renzo Piano abbia in mente dei progetti faraonici che distruggano gli acquedotti romani? No, probabilmente la semantica italiana non è stata capita, o forse non l'ho capita io, se è spiegato male. Secondo lui me non l'ha capita lei, perché rammendo, si vada a vedere il significato della parola rammendo, che cosa vuol dire? Vuol dire proprio... Cosa vuol dire rammendo, Giuliano? Rammendare significa ricucire una parte dall'altra, ma bisogna vedere con che filo, ad esempio, filo. Un con un acquedotto, magari li uniscono con un acquedotto. 1900. Grazie Giuliano, grazie. Comunque grazie su questo mille. Tema è bello che abbia chiamato, e se ha delle altre idee ci chiami ancora, perché il dibattito sicuramente è aperto. Antonella dalla provincia di Varese, buongiorno. Buongiorno a voi, complimentissimi a tutti quanti, siete veramente molto bravi. Volevo intervenire sul problema dei compiti delle vacanze sì, compiti delle vacanze no. Prego, ci dica. Io penso questo, che essendo le vacanze scolastiche in Italia estremamente lunghe, quelle estive, se non diamo qualche compito a questi ragazzi, tornano a scuola che non si ricordano più un bel nulla. E sono estremamente lunghe rispetto a tante scuole che si trovano sia in Europa che fuori dall'Europa. Per esempio la scuola tedesca, sono meno vacanze estive. Quindi ha ragione Antonella. Sì, sì. Sono molto meno, sarà un mesetto e mezzo neanche forse. Un paio, diciamo. Però poi ci sono più. È un sistema diverso, nel senso che in molte scuole, diciamo, straniere, in realtà il sistema è per cui ci sono più vacanze poi durante l'anno, esatto, perché magari c'è una settimana esatto, per andare a sciare. È anche più logico, tutto sommato, perché insomma questi 3 mesi quasi di vacanza sono anche abbastanza impiegabili. Oh, allora facciamo una proposta. Nessuno li fa. Facciamo una proposta, allora diminuiamo. Ci sarà l'assalto, mi uccideranno le vacanze estive. Cioè, anziché fare 3 mesi, facciamone 2 e magari qualche pausa in più durante l'anno. così risolviamo due problemi in uno, quello dei compiti. In Germania sicuramente non darli. No, ma non è che possiamo non darli, è che in realtà poi così uno ha dei momenti cuscinetto anche durante l'anno dove in realtà uno può recuperare, perché poi nelle settimane di vacanza sparse in giro per l'anno uno può decidere di andare a sciare oppure di recuperare invece matematica, per esempio. Sì, o anche semplicemente di metabolizzare quello che ha imparato durante l'anno. Però mi sembra interessante il fatto di sottolineare che invece in Italia le vacanze sono molto lunghe, perché in effetti, essendo molto lunghe, forse anche la scuola si sente in dovere di dare Brava Antonella, po' più compiti. È un bel argomento questo qua. Voleva dire qualcos'altro? Forzando le vacanze anche estive si risolvono anche un bel po' di problemi delle famiglie che non sanno dove mettere i figli. Questo è un altro capitolo. Ha ragione. Antonella, va bene, va bene. Siamo partiti da una cosa e arriviamo a un'altra, però va bene, grazie. Grazie mille. 800 24 00 24, continuate a chiamarci, ci risentiamo tra pochissimo. Poi con un altro indizio, per quanto riguarda, lo vogliamo dare? No, diamolo. Diamo un altro indizio. Diamolo, così l'altro indizio è festeggia 50 anni. Il nostro personaggio della settimana parla inglese. Esattamente. Festeggia 50 anni. A tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Di questa bellissima This Must Be The Place, siamo alla ricerca anche noi di un posto particolare. Il posto è i beni confiscati alla mafia, in realtà. Attorno a questo e anche ad altro ruota il Festival dell'Impegno Civile che si tiene. Il sottotitolo è Le Terre di Don Peppe Diana, il prete ucciso dalla Camorra nel 94. Un festival che si tiene nel napoletano a partire da quando e fino a quando? Lo chiediamo a Valerio Taglione del comitato Don Peppe Diana. Buongiorno. Buongiorno, buona domenica a tutti gli ascoltatori. Un lungo festival che attraversa quasi tutta l'estate napoletana. Sì, non solo napoletana, potremmo dire della regione Campania, in particolare anche della provincia di Caserta. È un festival appunto che coinvolge più di 25 comuni della regione Campania, più di 35 tappe. È partito l'11 giugno con una tappa a 15 nella Vellinese e finirà il 9 agosto a Maiano di Sestaurunca, quindi nell'Alto Casertano. E la particolarità appunto di questo festival è che tutte le location, tutti i luoghi dove faremo musica, incontreremo spettacoli, dove ragioneremo, dove discuteremo, dove rifletteremo, sono luoghi di memoria e luoghi di impegno, sono quelli che erano i beni confiscati e che ora sono beni collettivi, sono beni della comunità e che sono stati riutilizzati e che in qualche maniera sono diventati luogo di riscatto delle terre di Don Peppe Diana. Un festival davvero davvero quasi imperiale, mi verrebbe da dire, perché avete sentito, tante sono le città coinvolte, tante le date, tanti gli appuntamenti, molti di rilievo, molti fatti in beni confiscati alla mafia, e questo è un messaggio importante da dare, perché è un tema, questo lo sappiamo, molto delicato. Nel senso che spesso la magistratura, le forze dell'ordine arrivano a sottrarre questi beni alle mafie, però poi non si riesce a dargli un'altra vita. Invece il messaggio che voi portate è proprio questo, che si riesce. Valerio, ci vuoi raccontare qualche caso particolare, qualche storia particolare che emergerà in questi giorni del festival? Noi racconteremo che si può fare, un po' come il vostro titolo. Noi di questo siamo molto contenti. E tutte le tappe sono su beni confiscati, non è che non ce ne sono altri, diciamo, che si svolgeranno al di là, diciamo, di appunto dei beni confiscati. Noi vogliamo appunto dimostrare, stiamo dimostrando in questi anni, siamo alla settima edizione, che il bene confiscato è un patrimonio che può determinare la crescita di un territorio, che in qualche maniera simboleggia un territorio che si riscatta. Ci sono tante storie, noi appunto il tema di quest'anno è Storie per bene, il tema di questo festival, proprio perché abbiamo giocato sulla parola per bene, perché racconteremo storie non solo del bene confiscato, ma racconteremo anche storie di persone per bene. Ma vogliamo fare qualche esempio? Perché davvero, andando a sfogliare il programma, ci sono tantissimi incontri. Il Don Diana Day, il 4 luglio c'è il Don Diana Day, ma il 30 giugno faremo un Alexio Magistralis con il Vescovo Emerito Raffaele Nogaro, poi avremo una tappa dedicata ai testimoni di giustizia, una tappa dedicata al tema appunto dei beni confiscati, che fare, lo faremo con la commissione della Regione Campania che si occupa di beni confiscati, racconteremo la storia di Jerry S. Armaslo, di cui questo immigrato che è ucciso nel 89, che quest'anno appunto sono i 25 anni del suo ricordo. Il festival racconterà anche non solo storie di vittime innocenti, insomma di persone che sono state uccise, ma soprattutto racconterà di persone vive e che ogni giorno combattono la loro battaglia. Storie per bene è un po' il filo conduttore, il sottotitolo anche del festival che voi utilizzate per descrivere appunto questo filo conduttore. Ma mi scusi, le posso chiedere una cosa? Sono lo stupido dei due, io non sono il giornalista, ma le volevo chiedere come sta andando la questione dei beni confiscati, che si dice sempre appunto che vengono confiscati però poi non si riesce a riutilizzarli, stanno migliorando le cose o no? È un problema, grosso, diciamo, ci sono tante iniziative ma c'è tanto ancora da fare. L'agenzia purtroppo ha marcato il passo in questi ultimi mesi, fortunatamente dell'altro giorno la nomina del nuovo direttore, ma tutti parlano di riformarla, ma fondamentalmente siamo un po' al palo, insomma ci sono tanti beni, tante storie, le aziende che sono un grosso problema, diciamo, del tema appunto della confisca, perché molto spesso quando vengono confiscate la maggior parte falliscono, quindi muoiono, e questo è un tema importante soprattutto quando parliamo di lavoro. In che senso falliscono? Cioè beni confiscati che vengono gestiti da altre persone che però poi falliscono? Quando purtroppo i beni confiscati significa che poi vanno allo Stato, e quindi c'è il problema poi del riutilizzo. Molto spesso dalla confisca al riutilizzo passano molti anni, il bene viene vandalizzato quando parliamo di beni immobili, ma quando parliamo di aziende c'è il rischio appunto che possano, diciamo, di colpo morire. È più facile riutilizzare un bene immobile tante volte piuttosto che far ripartire poi un'azienda, però questo è un problema. Avete fatto un conto di quanti beni immobili sono coinvolti in Campania e nel vostro festival? Perché, ripeto, le location sono talmente tante, prima qualche numero ce l'ha dato, forse mi sono distratto io. Sì, è un festival, aggiungo che è un festival dal basso, nel senso il Comitato Don Diana e Libera Caserta lo promuovono, ma si fa questo festival soprattutto perché ci sono le tante organizzazioni, le tante cooperative che utilizzano i beni confiscati, sono appunto 35 tappe, quindi significa che ci sono più di 50 organizzazioni coinvolte che utilizzano i beni confiscati. In alcuni casi proviamo anche ad aprire i beni confiscati per la prima volta col festival. Perché quella è la parte più importante, perché credo che per i cittadini sia esattamente quello di vedere finalmente un bene che tutti sanno che apparteneva alla mafia, che adesso invece improvvisamente è un parco pubblico, una villa per tutti. E questa è la buona notizia del festival. Mi dice anche un'altra cosa, Valerio, scusa, che cos'è il Corto Biologico Film Fest Competition? È una iniziativa all'interno, diciamo, del Festival dell'Impegno Civile, in cui abbiamo invitato, diciamo, filmmaker giovani a produrre dei corti in cui raccontano storie del territorio, insomma provare appunto a raccontare le storie del si può fare del territorio. È una iniziativa che accompagna il festival dalla sua nascita, tanti sono i lavori, insomma, che abbiamo avuto in questi anni, e quindi una delle serate, insomma, del festival appunto sarà la premiazione del corto biologico. Aggiungo che nel comitato scientifico di questo festival abbiamo Federico Cafiro De Rao, il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, il vescovo Nogaro, ma anche due testimoni di giustizia, Carmelina Prisco e Augusto Di Meo. Augusto Di Meo è colui che ha indicato l'omicida e l'assassino di Don Peppe Diana, che purtroppo da allora ancora non è riconosciuto dallo Stato come testimone di giustizia. Questi sono un po' i problemi poi che si vivono nella quotidianità, insomma, di queste persone che non si sono girate dall'altra parte, hanno dimostrato nei fatti che si può fare, che si doveva fare soprattutto. Bravi, benissimo, andate sul sito festivalimpegnocivile.it e trovate tutto il programma se volete partecipare. È anche il nostro testimonial, nel senso che ha detto l'espressione si può fare almeno come, 8 volte, come nessuno mai prima. Grazie Valerio. Noi lo facciamo anche con l'economia, nel senso che i beni confiscati sono diventati anche un'occasione di reddito e di riscatto per i cittadini. Facciamo devono esserlo. Va bene, va bene. Grazie mille Valerio Taglione, referente del comitato Don Peppe di Ana, che ci ha parlato di questo importante festival, una serie di appuntamenti lungo l'estate fino alla metà di agosto in tutta la Campania. Adesso abbiamo ancora qualche spazio per gli ascoltatori. Valentina da Monza, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Chiamavo per il personaggio. Fantastico. Per il ottimo nome? Sì. Dan Brown, secondo me. Qual è? Vai, qual è la notizia di questa settimana alla quale è legato il personaggio Dan Brown? Non ho capito, scusi. Qual è la notizia alla quale è legato Dan Brown? Perché il nostro allora, personaggio deve anche aver fatto in inglese e oggi è il suo compleanno, compie 50 anni. Oggi? Ecco, oggi? Oggi è il suo compleanno. Brava Valentina, ma questa è una notizia anni straordinaria, però purtroppo non è Dan Brown. Oggi davvero compie 50 anni? Sì, oggi compie allora 50 anni. È un altro caso in cui il personaggio quasi ad honorem dovremmo assegnarlo a Valentina, perché in effetti allora ci stava. Allora adesso vado ad ascoltare il prossimo. Ci stava. Posso dirvi una cosa? Certo. Anche due. Prima ho sentito una notizia che avete passato inerente i canili e le malattie infettive. Ragazzi, mi cadete su questa cosa. No, dai. No, no, è colpa mia. È colpa mia. Era una battuta perché stavamo parlando. Okay. No, no, chiedo scusa no, in generale. Penso che sia comunque una cosa abbastanza importante, formativa anche magari per un bambino, non magari durante le vacanze, però può essere un modo. No, è assolutamente no, faccio mia colpa assolutamente. Era semplicemente per dire. No, però ti spiego. È semplicemente che era stato detto tra le cose alternative da fare durante l'estate invece dei compiti, e l'ascoltatore aveva detto, sì, per esempio, visitare benissimo. Visitare un canile. E lo stesso ascoltatore diceva, perché così si può fare l'incontro con, e siccome non ha finito la frase, mi faceva ridere che l'incontro ed era questo, però chiedo scusa ovviamente, non è che ci sono, e tra l'altro sarebbe stata più giusta la battuta dicendo che avrei fatto l'incontro con la rabbia, così mi sto scavando la fossa da solo. Sì, secondo me sì. No, va bene Valentina, scusa. Grazie mille, buona giornata. Grazie anche a te, buona domenica. Siamo Sabrina da Brescia. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Sono i Beatles. The Beatles, sì. E qual è la notizia? Perché ho visto il trailer al cinema della rimasterizzazione del film. Quale Hard film? Hard Day's Night. Ah sì, è vero. No. Però non è questo il personaggio. Non è questo. Grazie mille. Continua a seguirci e a chiamarci. Daniela da Verona. Facciamo anche buongiorno. Daniela, poi andiamo in pubblicità. Sì, buongiorno. Buongiorno. Grazie per la trasmissione, siete stupendi. Ecco, grazie. Volevo dire che forse i compiti delle vacanze li dovrebbero abolire, nel senso che 20 anni fa mia figlia alle elementari, addirittura l'insegnante in quarta, aveva diviso la classe, metà bravi, metà meno bravi. Ulla. Mia figlia che giocava tantissimo, non gli interessava proprio di essere applicata, sappiamo che i compiti sono tutti pilotati su questi libri prefatti, precostituiti. No, momento, in che senso i compiti sono pilotati? Che mi sembra veramente... C'è il complottismo? Parliamo dei libri, i libri sono costretti quasi a dotarli gli insegnanti, per cui bisogna per forza fare un certo percorso scritto, non viene lasciata libertà. Io ho avuto librerie per 30 anni, posso dire di tutto e di più. No, d'accordo, però scusi, non è però dire che i compiti sono pilotati è un conto dire che i compiti scritti sui libri delle vacanze. Sì, sono compilatori, diciamo, non è che sono pilotati. Non hanno, non lasciano libertà al bambino. Comunque niente, non ho potuto lamentarmi perché mia figlia era tra quelli più stupidotti, perché avendo in libreria avevo bisogno di lavorare con le insegnanti, perché un rapporto molto educato, molto rispettoso. Guarda caso, dopo 20 anni, è per questo che ho telefonato e così tranquillizzo tutte le mamme che hanno problemi con questi maledetti compiti. Cioè, ha aspettato 20 anni a telefonarci? Mia figlia, che ha un dottorato in matematica, è l'unica tra i deficienti che si è laureata, perché neanche i bravi si sono laureati della sua classe. Allora questo è il si può fare. Scusi. Fate una protesta, voi non avete libreria, protestate, devono essere liberi di viaggiare, camminare, correre, giocare al pallone, leggere quello che vogliono, ma non su queste pagine tutte scritte pestate. Guarda Daniela, io la vedo come lei, però poi non siamo noi a decidere. È interessante nel senso che si sta dicendo compiti va bene, ma però un certo tipo di compiti che non siano questi compiti, diciamo, che sono un po' poco utili. Però la buona notizia mi sembra che la figlia dell'ascoltatrice, che in realtà studiava poco, adesso invece ha un master in matematica, ho capito bene? E quanti ce ne sono di casi di questo genere? Cioè, ti ricordi a scuola il vicino di banco, quello che andava sempre bene, che sembrava il migliore, poi all'università si è fermato, non ha fatto nulla. Vabbè, è l'ultimo che invece sembrava uno scarto di magazzino e che poi invece il problema è non mettere le etichette, assolutamente. Quindi mi sembra che la cosa più sbagliata è il fatto di dire metà della classe è brava e studia questo, la metà non brava studia dell'altro, perché quello è la ghettizzazione, diciamo, ed è il bisogno che hanno anche gli insegnanti di appiccicarci addosso delle etichette, cioè tu sei quello bravo, tu sei quello stupido. Fra un po' forse dovremmo dare un altro indizio per il personaggio della settimana, altrimenti non indoviniamo. Ricordiamo che parla inglese e festeggia 50 anni, a tra poco. Si può fare cronache da un paese migliore. In che saresti il migliore? Fammi il favore, compare, qui non c'è affare che tu possa meritare. Sei confinato ma nel tuo stato mentale, io sono lunatico e pratico, dove cazzo mi pare? Io non sono nero, io non sono bianco, io non sono attivo, io non sono stanco, io non provengo da nazione alcuna, io sì, io vengo dalla luna. Io non sono strano, io non sono pazzo, io non sono vero, io non sono falso, io non ti porto iella né fortuna, io sì, ti porto sulla luna. Prato, mediatori culturali a bordo degli autobus. Pensa un po', 24 persone, tra cui 6 immigrati, saranno formate al fine di prevenire conflitti e incomprensioni tra i passeggeri che nascono spesso per via della distanza culturale. Un progetto dell'azienda dei trasporti, la CAP, ma anche della Caritas e della provincia di Prato. Mi sembra una bellissima notizia. Questa cosa però ci ha incuriosito e allora abbiamo convocato Gioia Morui Benelli, che è una di queste persone, è una mediatrice culturale. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Intanto non so se ho pronunciato bene il nome. Joy? Sì, va bene, Gioia Morui. Va bene. Siamo sulla mediazione culturale, almeno pronunciare giusti i nomi. Noi vorremmo almeno pronunciare giusti i nomi. Vediamo di non creare subito delle distanze sul nome. Ho pronunciato benissimo. Allora, è un titolo, diciamo, è una forzatura oppure è proprio così? Cioè, perché noi siamo abituati a pensare ai mediatori culturali che stanno chiusi negli uffici del comune quando uno ha un bisogno va lì. Invece voi siete stati chiamati per andare proprio in giro. I mediatori culturali devono stare in mezzo alla strada. Ecco. Questa volta sì, a parte che i mediatori culturali vengono chiamati dove c'è bisogno. Sì. C'ha un lieve accento toscano, Joy, ma lei di dov'è? Tu di dove sei? Diamoci del tu. Io di origine ovviamente sono nigeriana, però sto in Italia da tanti anni, ho fatto l'università a Firenze, mi sono laureata e... Beh, ovviamente non era così ovvio, non è che fosse così ovvio. Invece è bellissimo sentire questo tosco nigeriano. È bellissimo. Da quanti anni sei in Italia, Joy? Allora, sto in Italia dal 1999. 15 anni. E a che età sei arrivata però? Avevo 18 anni. Ora hai appena chiesto l'età a una signora, Alessio, sì, cosa sì. Che non si fa. Nella nostra cultura non si fa, non lo so in Nigeria. Però basta non fare le somme tra le due date. È un fatto culturale, per avere più rispetto si tende a aumentare l'età, quindi comunque io l'aumento, perché sto in Italia da tanti anni, mi sono integrata, quindi meno anni mi date meglio è. Aspetta un attimo, Joy, in Nigeria per rispetto culturale si danno più anni per un rispetto della persona? Sì, tende a aumentare gli anni. Quanti anni hai invece di dire, per esempio, 18? Io ho 20 anni, quindi sono più grande di te, allora... Ah, ma è quello che faccio io dico sempre che sono del 61 per invecchiarmi, però in Italia serve per farsi pagare di più, perché diciamo fino ai 50 anni si viene pagati come stagisti, poi dopo i 50 uno dice scusi, io sono nato nel 43, adesso ho 9 figli, posso avere un aumento di stipendio di 6 euro, quindi io mi invecchio sempre. Vedi le diverse tradizioni culturali, che in questo caso però coincidono. Joy, hai iniziato già fare questa attività di mediatrice culturale a Prato? Sì? Sì, praticamente abbiamo terminato, anzi ci manca ancora da fare 4 ore e 28 di questo mese. Abbiamo fatto il corso di formazione. Sì. Abbiamo avuto due docenti, una psicologa e un docente senegalese che ci ha formato proprio in aula 39 ore. Quindi, ma cosa si studia? Cosa si studia? Scusa, io non sono il giornalista dei due, sono quello stupido. Praticamente ci hanno formato, praticamente, spiegandoci più o meno quello che si verifica su bus. Ovviamente io non faccio il verificatore, per appunto faccio la mediatrice culturale, sicché i verificatori ci hanno spiegato quello che succede su bus, che praticamente quello che il maggior caso di infortunio che si verifica, sì, tra i lavoratori della CAP, si verifica proprio sui bus, causato dalla maggior parte degli stranieri. Ovviamente non è che... Cioè di infortunio vero e proprio? Cosa sono? Risse? Sì, che succede? Risse che vengono mandati al pronto soccorso perché poveri, le persone non vogliono pagare il biglietto. Quindi questo capita proprio ai verificatori che lavorano sui bus, che ci hanno chiamato. Io ho detto la mia, perché a volte se uno non si capisce tra sé, sì, questo può causare anche litigi, per esempio. Io gli ho fatto un esempio: noi nigeriani, per dire, quando parliamo, sì, tendiamo a alzare molto la voce. Anche se non siamo arrabbiati, però se tu non mi conosci puoi pensare che questo sia questo un atteggiamento aggressivo. È molto preciso come esempio. È un bel perché esempio, è vero, sì, perché i verificatori sono i controllori del biglietto, giusto? Sì, i controllori dei biglietti. Perfetto. Esattamente. Quindi ci sono tante cose culturali che va spiegato, anche i gesti, per dire. Joy, ma a Prato, sì, dove si è parlato spesso della questione dei cinesi soprattutto, che sì, sono una comunità credo molto presente e importante, sì, non sono i problemi di cui tu parlavi, sono causati talvolta anche dai cinesi che sono di più, oppure anche da altre comunità straniere? Da quello che mi hanno detto, sì, allora sono causati dai cinesi, nigeriani e marocchini. Nigeriani, quindi qui scatti tu. Ci sono anch'io, cioè io non picchio, sì, le persone. Però. In qualche caso. Non è che sono causati per forza loro, sono causati dall'incomprensione, giusto? Ma questo è da verificare, penso che anche l'incomprensione faccia parte. Certo. Ovviamente finché non salgo non è che glielo so dire, come ho detto prima io non vado a lavorare con i verificatori, però dall'incomprensione magari la gente non vuole veramente pagare il biglietto, no? Dice io non ho soldi, non voglio pagare, però non pagando i biglietti ci sono tanti problemi dietro, perché se tu non paghi il biglietto vengono chiamate le forze dell'ordine, a sì, parte vi picchiate finché è pronto soccorso, cioè per non pagare 2 euro si spende un monte di soldi. Beh, però un momento, non è che si viene picchiati se non si paga il biglietto in Italia? No, no, no, no, nel senso, se uno non paga il biglietto, poi... No, è il contrario, si chiede di pagare il biglietto, nasce un diverbio e a volte sì, l'autista o il verificatore subisce la peggio e ha qualche ritorsione, questo è quello che... È quello che sto dicendo. Sì, certo. Quindi, no, se uno non paga il biglietto, poi nasce questa rizza, i verificatori, come mi hanno detto loro facendo il corso, finiscono in ospedale. Io sto dicendo praticamente per 2 euro si manda le persone in ospedale, arriva l'ambulanza, tutto questo e non va bene, c'è un costo molto maggiore, certo, chiedo scusa, ma vi occuperete soprattutto quindi del rapporto fra verificatore, ovvero il controllore, e cittadino straniero che non ha pagato il biglietto? Sì, questo è? Sì. Sì. Io pensavo ci fosse anche la mediazione fra culture, tra passeggeri, per esempio, tra incomprensioni. Da cosa nasce cosa? Si parte da lì e poi chissà dove si arriva. Certo. Non sarebbe male come idea, ovviamente si spiega che siamo tutti qua tra culture diverse, no? Che ovviamente, come ho letto, perché questo progetto l'ho letto anche su internet, l'autobus praticamente è un luogo di incontro di culture diverse. No, infatti ero interessato a quel tipo, nel senso che anche culturalmente capire che bisogna pagare il biglietto non è una cosa molto difficile da capire, diciamo. C'è un biglietto da pagare, bisogna pagarlo, se uno non l'ha pagato è contro la legge. Joy, ma che orari farete questo vostro giro sull'autobus? Quanto starete fuori? Da quello che mi hanno detto dovrebbe essere sui 8 ore. Ah, però 8 ore in giro sull'autobus? Sì, ovviamente è impegnativo. Una pausa, no, scusi, mi sembra 6 ore e mezzo. No, ho sbagliato. Ah, 6 ore e mezzo. 6 ore e mezzo. Sì. Va bene, quanto dura questo incarico? Praticamente il corso formativo l'abbiamo già finito. Sì. poi l'incarico io farò una settimana, praticamente tutti i giorni una settimana. Solo una settimana dura? Sì, perché siamo formati in due gruppi. Sì. Il primo gruppo immagino la prima settimana, poi la seconda settimana. Anche questo io avrei qualcosa da dire. Spero che ci sia un successo, però c'è un po' di continuità, tu dici, cioè ci hanno formato e tutto, poi lavoriamo solo una settimana. In effetti almeno un mesetto si poteva fare questo contratto anche per guadagnare qualcosa. No, la formazione è durato due settimane, quindi sì, cioè è durata più la formazione di quello che poi sarà l'impegno vero e proprio. Ma giustamente deve essere così, perché non l'abbiamo mai fatto come Joy, in bocca al lupo. È bella questa esperienza, magari potremo risentirci più avanti quando questa settimana sarà alle spalle e potrai raccontarci degli aneddoti su come è andata. Esatto. Grazie. Buona giornata, buona domenica. Mediatrice culturale nigeriana di Prato, impegnata, chiamata a dirimere le questioni sugli autobus di quella città. Hai visto? Ti devo leggere un SMS che risponde al nostro quiz, che dice: la risposta è mia suocera, compie 50 anni e parla inglese. Mi sembra molto bello. Però non è quella esatta, tra poco. Attacco il mio sole, scoprire il mondo che c'è, niente che non si possa fare. Si può fare, si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, ci scrivono al 348-8666, se la mediatrice culturale fosse italiana probabilmente non le stareste dando del tu e non le avreste chiesto l'età. Niente di male, ma tendiamo a prenderci più confidenza con gli immigrati. Davide da Milano. Davide, ma per favore, ti prego. Allora, innanzitutto non io abbiamo del tu non anche abbiamo a quello del festival dell'impegno civile prima, e quindi quando non sono ospiti istituzionali spesso ci diamo del tu anche per renderli più a loro agio. Le ho chiesto da quanto tempo era in Italia perché è straniera, è chiaro, è casualmente, cioè, venuto fuori. È interessante l'età, sapere questo. Anzi, abbiamo sottolineato che non si chiede l'età. Vedi, si sta sempre così a cercare il pelo nell'uovo, a volte ci si perde in contorsioni incomprensibili. Abbiamo ringraziamo anche Grace Forte per il suo SMS. Prego, prego, vai. Senza specificare che sì, cosa. Senza specificare. Nicasio o Nicasio da Milano, buongiorno. Nicasio, prego. Volevo dare la risposta, sì. Almeno provare. Sì, Mary Poppins. Perché? Perché il film è del 64, parla inglese, quindi con 50 anni. Beh, una bellissima Bravo. Risposta, una bellissima risposta. E in effetti, però non è lei il personaggio, in effetti era bella. Ci stava completamente, va bene. Mi dispiace, continua Grazie a seguirci e a chiamarci la domenica per indovinare. Donatella da Firenze, buongiorno. Buongiorno. Prego. Rolling Stones. E vai. È chiaro che l'applauso sottolinea la giustezza della risposta. Donatella. Sì, sì. Hai vinto. Bene, cosa? Giustamente. adesso si passa alla cassa. Adesso a scelta tua i biglietti e il catalogo della mostra dei Pre-Raffaelliti a Torino di Andy Warhol a Roma. A tua scelta, poi ti metterai d'accordo con il nostro centralino. Beh, la notizia è il concerto di stasera a Roma, ovviamente. Questa era la notizia sui Rolling Stones. Grazie, Donatella. Grazie e complimenti per aver vinto. Grazie. Non era così entusiasta, forse non interessa. Sperava di aver vinto un'automobile? L'automobile, sì. Forse sperava di aver vinto giustamente due biglietti per il concerto dei Rolling Stone a Roma. Adesso è il momento di Rossano Ercolini. Three, it's a magic number. Yes it is. It's a magic number. Siccome non abbiamo molto tempo, accorciamo sulle note musicali e salutiamo Rossano. Buongiorno. Buongiorno. Zero waste, zero rifiuti zero, la vostra campagna in giro per l'Italia, caccia di buone pratiche tra le aziende. Rossano, questa settimana cosa ci racconti? Adesso siamo nell'ultimo appuntamento, oggi chiude ufficialmente un mese di iniziative per promuovere rifiuti zero qui a Capannori, ma ieri è stato un momento eccezionale dove 18 imprese, una lunga lista di imprese commerciali, agricole, manifatturiere, del turismo si è incontrato a Capannori in una cornice bellissima di partecipazione, di entusiasmo, di energia. L'energia sprizzava da tutti i pori. Che bello. E queste aziende naturalmente sono quelle che voi avete seguito, selezionate, accompagnato, perché sono alcuni dei racconti che ci hai fatto in questi giorni, no? In queste settimane, cioè sì, le buone pratiche. Quindi diciamo alla fine avete selezionato un parterre sì, de roi. Sì, sì. Abbiamo la grande azienda come la Carlsberg Italy che sta facendo innovazione, abbiamo il gruppo d'aziende, il biodistretto di Chianti che raggruppa sì, 57 aziende, abbiamo l'Hotel Conca, l'Hotel Royal di Napoli, l'Hotel Conca di Sorrento, l'hotel alla campagna di Verona, con esperienze che davvero vanno conosciute, e chiediamo a tutti voi di farle conoscere, perché sono esperienze bellissime in sé, che difendono l'ambiente, ma che meritano di essere studiate e condivise. Sono dei laboratori che già sono operativi. Bellissima questa l'alternativa alle capsule del caffè. Quindi davvero quell'Italia che pedala, che respira, che crea, bellissima la statuetta, questa, che è stata, sì? Prego, la statuetta che è stata consegnata ad ogni vincitore, una mano dove spunta, sboccia il fiore della circolarità dei processi naturali. E poi abbiamo dichiarato lo zero waste dell'anno. Antonino Esposito, che ha promosso il progetto Hotel Ristoranti Rifiuti Zero, è stato dichiarato lo zero waste, l'attivista Rifiuti Zero più bravo del 2014. Va bene, senti Rossano, facciamo così, il nostro maestro di capanno, rianimatore, è sempre bello ascoltarlo, di questo grande e importante movimento per Rifiuti Zero in Italia. Facciamo così, siccome noi domenica prossima chiudiamo, non vogliamo saltare anche l'ultimo appuntamento, domenica prossima ci sentiamo e ci racconti i progetti per il futuro, ok? Va bene, intanto un salutone a voi, un ringraziamento per la collaborazione, e a Danilo Boni, il biker, che è il protagonista di perfetto, questo Giro d'Italia. Perfetto, grazie mille Rossano. Ciao, a domenica prossima, allora, domenica. Per chiudere le fila di questa iniziativa, noi dobbiamo salutare il momento dei saluti. Ringraziamo Andrea Piana, il nostro autore che ha scritto con noi del programma, Giorgio De Luca, poi Nicolò Rossoni, ecco, stavolta ho indovinato anche il cognome, la new entry di Radio 24, assente in redazione quest'oggi, Carmela Loricella in regia. Noi ci sentiamo sabato prossimo, certo. Buona domenica da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Ciao a tutti, ciao.